piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Amici, io ho deciso di aprire tutti quanti gli scatoloni dei ricordi. No vabbè, io ho trovato il mio diario, no, guardate qua, il mio diario di quando avevo, io non so, dai 9 agli 11 anni. C'è di tutto, è bellissimo. Guardate qua, mi sono tagliata i capelli, sto bene. Poi c'avevo tutti i ritagli di giornale, qua quanto c'avevo? 16 anni, che mi ero innamorata, il mio primo fidanzatino, senza neanche un bacio ovviamente, guardate, che faceva canottaggio. Che brutta cosa, andare in giro e trovarsi 30, 40 amici tutti insieme appiccicati a meno di un metro di distanza. Che brutta cosa, invece a casa si riscoprono giochi nuovi, potete giocare, che ne so, a Monopoli, a Risico, al mimo dei film, potete fare il karaoke, potete giocare, potete divertirvi a casa con i vostri genitori, con i vostri parenti. Come? Fate i post su Instagram, la vita perfetta, casa, copertina e Netflix, e adesso che dovete farlo? No. Allora, quello che avete sentito poco a che fare con la nostra evoluzione digitale. Erano dei VIP, Barbara D'Urso, Fiorello, Emma Marrone, che raccontavano nei loro profili social quella che era la loro giornata, creando un meccanismo di potente riavvicinamento al loro pubblico, in cui viene dimostrato che in questo momento di particolare difficoltà anche il personaggio noto, che si immagina che possa fare una vita senz'altro privilegiata, diversa, con diverse forme di godersi il quotidiano rispetto al suo pubblico, in realtà faceva le stesse cose. Stavano a casa, non avevano chi si occupasse dei loro capelli, della loro bellezza, ingannavano il tempo interminabile come lo ingannava ogni altra persona. Ma questo semplicemente è un escamotage per dare corpo e consistenza a un momento di necessario allontanamento da tutti i terminali che certificano e tengono in vita, come se fossero la formaldeide per un cadavere, la celebrità delle persone che già godono comunque di una riconoscibilità. Perché? Perché la televisione li ha resi celebri, perché sono sull'onda, erano almeno sull'onda della visibilità attraverso i media più popolari. Però esiste allo stesso tempo qualcosa che è stato significativo di un cambiamento negli usi, nei costumi, nell'attenzione che gli italiani hanno per la loro cosiddetta evoluzione digitale. In questi due mesi molti hanno capito molte cose che prima magari non avevano ben chiare. Lo hanno capito molte aziende, vedendo come possono razionalizzare il lavoro di alcune fasce dei loro dipendenti. Lo hanno capito molte persone che si sono rese conto che al di là dei loro mestieri, che apparentemente dovevano dare l'immagine di un perfetto allineamento con quelle che sono le tecnologie che la contemporaneità mette a disposizione dell'umanità per muoversi in maniera più efficiente, più potente, più disposta a mettersi in gioco, in realtà non le avevano, in realtà erano convinti che il telefonino aziendale con i giga a disposizione sarebbe stato per sempre il mezzo più efficiente per rimanere collegati. Sono resi conto che se a casa non hai una connessione come si deve, non hai strumenti adeguati, sei tagliato fuori dal mondo. Se il mondo in quel momento si basa soltanto sulle contatti interlacciati tramite la rete. Ecco, tutto questo ha rimesso in moto, in questo lento riavvicinarsi a una cosiddetta normalità, tutto un pensiero che noi oggi vorremmo iniziare a capire, a sviscerare, a vedere, perché quando tireremo i conti di quello che ha causato nelle nostre vite, nella esistenza generale, questi due mesi di isolamento, dovremo anche mettere sul piatto la bilancia che forse per qualcuno questa è stata un'occasione di riflessione su ciò che oggi viene messo a disposizione degli esseri umani per vivere più pienamente il loro tempo. Vincenzo Cosenza, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Allora, fatto questa introduzione, perché questo è un po' il tema che Vincenzo Cosenza sta approfondendo e su cui sta ragionando da alcune settimane. Ricordo che Cosenza, che è ospite nostro frequentemente, è responsabile marketing di Basul, che è una piattaforma di influencer marketing, è un esperto di analisi della comunicazione dei social media. Ecco, vedo che nel tuo blog, Vincos Blog, tu hai proprio recentemente scritto una tua riflessione su come il virus ha cambiato le abitudini digitali degli italiani. Cerchiamo di capire, intanto dico al pubblico di chiamare all'800240024, ditemi, vi siete sentiti cambiati in qualcuna delle vostre abitudini, nel vostro modo di percepire la vostra anima digitale, la vostra estensione digitale? La segregazione vi ha fatto sentire il bisogno di collegarvi in maniera diversa, di usare in maniera diversa i mezzi a vostra disposizione, o per voi non è cambiato nulla? Rimette sempre con il vostro smartphone in mano a giocherellare con i giochetti che vi mette a disposizione Facebook e tutto finisce lì. Allora, Vincenzo, tu hai posto, diciamo, uno spartiacque fra le vecchie abitudini che sono state amplificate e nuovi bisogni che sono appalesati proprio dal momento in cui eravamo isolati. Io ho bisogno di comprare un cavetto, devo comprarmelo su Amazon perché il negozio che li vende sotto casa mia era chiuso. Sì, in effetti c'è stato, da almeno guardando i dati, c'è stato un emergere di nuovi bisogni, ma anche un'amplificazione di vecchie abitudini. Le abitudini che sono state amplificate maggiormente sono quelle relative alla fruizione di contenuti online, quindi il 64% degli italiani ha incrementato l'utilizzo di video in streaming, ma anche videogiochi e chat per tenersi ovviamente in contatto con gli amici distanti. E poi dall'altro lato c'è questo insorgere di nuovi bisogni che potrebbero essere anche temporanei, per esempio sono comunque bisogni forzatamente, diciamo, indotti da questa pandemia. Il 57% per esempio ha usato per la prima volta un tool di apprendimento da remoto per collegarsi con i professori della scuola, oppure il 42%. Ecco, facciamo l'esempio, la scuola italiana, sì, che non eccelleva certo in emancipazione digitale. Noi siamo abituati, che ne abbiamo parlato sempre, come l'eterno dissidio tra i professori che erano ancorati a una sorta di desiderio censorio di togliere ai ragazzi gli strumenti di distrazione, che poi in questi giorni, in questi mesi, sono stati gli strumenti unici che li tenevano collegati al corpo docente. La scuola velocemente, poi con i risultati che saranno valutati nel tempo, comunque si è adeguata. E tutti gli studenti italiani hanno comunque continuato a fare lezione da casa, cosa inimmaginabile prima, impensabile. Sì, c'è stato un adeguamento forzato, ma sicuramente c'è stato, anche se con le difficoltà di una politica che comunque ha privilegiato sempre in Italia lo strumento, quindi l'acquisto della lavagna elettronica, più che il processo di insegnamento, che necessariamente in questi casi deve mutare. Banalmente non è possibile tenere uno studente 4 ore di seguito davanti ad uno schermo fisso su una stessa lezione in cui l'insegnante appunto spiega una cosa, ma bisogna adottare delle strategie di didattica completamente diverse. Il calo dell'attenzione è maggiore se io guardo uno schermo e ascolto un professore che mi parla per 4 ore. Anche la tipologia di interazione va completamente riprogettata. Certo, sarebbe quindi bello, Vincenzo, se tutto questo, usciti da una fase di emergenza, perché adesso stiamo continuamente mettendo dei tappi a dei buchi, a delle falle che si aprono nella grande muraglia che abbiamo davanti dell'incertezza, diventasse motivo di riflessione. Esatto. Come può cambiare la didattica in un sistema integrato che tenga conto della possibilità di una connessione digitale di studenti e di docenti? Beh, avremmo classi meno affollate, avremmo orari diversi, avremmo meno gente per strada. Non dico che il sostituto della scuola tradizionale con la didattica in presenza sia che i ragazzi lo facciano da casa, ma diciamo delle forme di riflessione andrebbe fatto su questo. Su questo mi sembra che la materia c'è adesso. La materia c'è. La, proprio di riflessione, perché sono forme che vanno completamente inventate, che prima non esistevano. Questo farlo in maniera non sporadica ma continuativa impone appunto di ripensare completamente le forme della didattica. Insomma, siamo stati anni a pensare a quale lavagna elettronica, allo strumento, ma in realtà bisognava pensare al come cambiare la didattica. Cioè, ti vuoi capire che ne faranno adesso di tutte le LIM, quei lavagnoni giganteschi, esatto, obsoleti, pesanti, che hanno comprato e costano un pacco di soldi? Cosa ci si fa più adesso, quando poi basterebbe un proiettore alla fine per fare lo stesso lavoro? C'è da dire che costa pochi euro. Comunque, beh, detto questo, facciamo ancora un passo avanti. Io sto guardando il tuo studio, oltre lo studio anche l'intrattenimento che è stato, io ancora ho sentito illustri psichiatri dire attenzione all'autismo digitale che verrà nei vostri figli. Evito per pietà di citare la fonte, però una solenne, solerte cazzata che viene ancora una volta ribadita da chi vuole tenere ancora i remi in barca rispetto a evoluzione. Nessun autismo digitale, è un termine che fra l'altro non esiste, totalmente improprio, ma una maniera anche di concepire l'intrattenimento ludico in maniera diversa. Sì, sì, assolutamente. Che è aumentato sicuramente anche l'intrattenimento classico davanti agli schermi televisivi, ma a questo si è aggiunto anche l'intrattenimento attraverso, per esempio, YouTube o piattaforme nuove come Twitch, in cui c'è una forma di interazione molto forte tra spettatore e persona che appunto trasmette il video. Quindi c'è anche una forma di attività che la televisione insomma non ci permette di avere, e a questo si aggiunge anche la comunicazione a distanza con la messaggistica, la chat, che permettono proprio di scambiare informazioni e anche emozioni, perché no, con la persona che sta trasmettendo in diretta. Mi viene un pochino da sorridere che si sono accorti che su Telegram giravano ad esempio i quotidiani clandestini proprio perché la gente, stando in segregazione, ha cominciato a usarli, cosa sì, che da anni c'erano queste pagine Telegram dove arrivavano i PDF di tutti i quotidiani del mondo e uno non ha nemmeno voglia e tempo di sfogliarli, ti arrivano centinaia di link. Se ne sono accorti adesso che in realtà il rovescio della medaglia era anche un uso improprio di quelli che erano i diritti d'autore, la necessità di avere un mercato, di avere un compenso per il lavoro del proprio ingegno. Ecco, ad esempio, anche abbiamo citato la scuola, citiamo anche un po' il mondo del lavoro. È stato il boom di Zoom, nessuno sapeva nemmeno cosa fosse, a meno che in certe aziende lo usavano per fare le call con le persone che stanno in sedi distaccate. Lo Zoom è diventato usato anche molto male, perché ho visto usare Zoom da intrattenitori pomeridiani, in cui c'è un gran casino, tutti parlano assieme, non si capisce niente, non si capisce chi gestisce. Ecco, come è stato usato anche il sistema della conference in questo momento? Hai qualche dato? Sì, sì, Zoom è stato molto scaricato in Italia a marzo, addirittura oltre 2,5 milioni di volte, una cosa che appunto non era mai successo. Se ne è cominciato a parlare proprio in quel periodo, soprattutto sull'onda del successo americano e della semplicità di utilizzo. In pratica, per essere invitati a Zoom, per utilizzare Zoom, non c'è bisogno di scaricare software, tutto avviene grazie al browser, basta avere il link e si accede liberamente, quindi basta avere una videocamera e un microfono e si riesce a fare la video conferenza. La cosa interessante è che è stato utilizzato anche oltre l'utilizzo professionale per gli aperitivi su Zoom, quindi c'è una sorta di voglia di sostituire l'aperitivo in persona con un aperitivo, diciamo, a distanza. Diciamo che questa ultima forma oggi tenderà a scemare. Noi abbiamo provato a ricostruire in maniera così improvvisata quelle che erano le abitudini che ritenevamo indispensabili: l'aperitivo su Zoom, l'ora di ginnastica fatta su Zoom, la chiacchiera con l'amico su Zoom, il succedaneo di un incontro amoroso, sessuale, fatto sempre su queste piattaforme. Poi alla fine vedo che oggi mi sembra che l'idea che i serragli si siano aperti è abbastanza percepita, quindi questo sarà, passerà nel dimenticatoio. Cosa rimarrà di tutto questo però, secondo te, di positivo? C'è stata, dai tuoi indicatori, un minimo di consapevolezza di una dimensione digitale maggiore, o è stato semplicemente il gioco, il passatempo o il surrogato di questo periodo? No, io penso che rimarrà questa almeno consapevolezza che la tecnologia non è soltanto uno strumento del diavolo per alcuni e per altri solamente un mezzo per il cazzeggio, ma è comunque qualcosa che ci permette di facilitare la vita, quindi la vita di tutti i giorni. Quindi io penso che l'insegnante probabilmente avrà meno timore a organizzare una video lezione in futuro e la casalinga, diciamo, più restia si concederà il lusso magari di un delivery a casa dopo una giornata faticosa, cosa che magari prima non faceva, o l'utilizzo anche della moneta elettronica, ecco, che per alcuni è sempre stato un freno, un ostacolo. Sì, anche per molti è stato molto più semplice ottenere, anche se i primi tempi era piuttosto rallentato, anche Amazon, anche i siti di e-commerce, però l'unica maniera per avere a casa cose che ritenevano indispensabili rispetto, dico, i miei cavetti che mi bloccavano la possibilità di trasmettere da casa, mi arrivavano via Amazon e trovavo ridicolo avendo il negozio proprio qui davanti casa. Dico, pensa, invece che uscire dal portone e comprarmi un cavettino HDMI 4, HDMI 1 che mi serve per andare in onda, devo chiederlo su Amazon sperando che mi arrivi in tempo. Noi ci fermiamo soltanto un istante. Mentre per le strade c'è l'esercito, sui social si è scatenato l'esercito dei morti di figa. Da un punto di vista tecnico, l'MDF non si è evoluto neanche di un millimetro. Del tipo, il pianeta è preda di una catastrofe mondiale e lui attacca con il solito «Ehi, ciao, bellissima, caffè?» Che denota «Ciao, divina, come stai? Che fai?» Che cazzo vuoi che faccia? Sono qua chiuso dentro. Chiariamo che rimorchiare in questo periodo è un puro esercizio dialettico, teorico e concettuale. I crepuscolari del mandami una foto in perizoma quasi sempre sono bloccati in casa con la fidanzata o la moglie che li schiavizza con le incombenze domestiche più umili, e loro lì costretti per ore chiusi in cesso col tablet. Occupato. Cioè, cosa stai a rimorchiare che non puoi neanche uscire per andare a lavorare? Un'armata subdola e tentacolare. E comunque anche le donne ci mettono del loro, eh. Cioè, il fatto di non poter uscire, e questo non tanto per le restrizioni, ma per il fatto di avere la ricrescita e aver picchiato su almeno 4 kg, le spinge a veicolare la loro carica seduttiva postando foto di 4 o 5 estati prima in costume. E per questo motivo gli MDF trovano un pubblico immeritatamente ricettivo. Mettetemelo sotto, questo è il fratello delle sorelle Parodi. Diciamo Roberto Parodi, che esiste dicendo abbastanza ovvietà su quello che accade nei social. Sì, c'è stato anche questo, c'è anche stato un pochino di marpionaggine che è circolata, non mi sembra nemmeno il fenomeno più evidente, non mi sembra nemmeno più spessa di quello che sono solitamente gli esercizi di seduzione che si fanno via social. Poi la seduzione ha senso se poi finalizzato un incontro, gli incontri non potevano esserci, quindi era tutta un'attività onirica. Questo secondo me si sorvolerà. Stiamo parlando di una possibile evoluzione o uso diverso o più intenso degli strumenti social, del web, durante il periodo di segregazione a casa. Cosa vi è rimasto dell'onda lunga dell'uso che avete fatto dei social e della rete durante questi ultimi 2 mesi? Mi piacerebbe saperlo da chi mi ascolta, che può chiamare all'800240024, perché su questo argomento non vedo attenzione. Mi sembra singolare, perché abbiamo fatto anche trasmissioni aperte soltanto a un pubblico più giovane e probabilmente più abituato anagraficamente all'uso di questi mezzi. Mi sembra strano che oggi su questo nessuno abbia nulla da aggiungere. È cambiato molto il nostro modo di intendere questi strumenti. Prima venivano considerati degli accessori, venivano considerati un complemento del nostro quotidiano, per molti quasi gli oggetti del tempo futile. Poi ci siamo resi conto che in realtà erano fondamentali. Quanti di voi hanno fatto un abbonamento per una rete più potente a casa dopo questi giorni, che pensano che possa essergli utile. Quanti di voi sono comprati un computer? Quanti di voi hanno aggiornato il proprio computer? Quanti di voi hanno scaricato delle app che mai avrebbero pensato di scaricare? Ecco, in questo si vedono i segni della nostra evoluzione. Abbiamo al telefono, ricordo, Vincenzo Cosenza, che è responsabile marketing di Bazul, che è una piattaforma che si occupa appunto del marketing, degli influencer marketing attraverso gli strumenti di rete, che ha avuto la maniera di osservare quello che accade. Tu hai avuto, Vincenzo, modo di vedere, mi rendo conto che il dato è un po' repentino, di avere un'idea di quello che è accaduto da lunedì, da quando c'è stato più o meno, in un fraintendimento graduale a seconda dei punti di vista, un ritorno alla normalità. La gente ha attaccato lo smartphone al chiodo, è uscita nuovamente per strada, o qualcosa è rimasto delle abitudini consolidate negli ultimi due mesi? Ma ancora ti dico, non ho dei dati molto solidi su cui ragionare, però guardando quello che è un po' successo nella mia rete, quello che ho visto è che sicuramente c'è stata una flessione dell'attenzione alle dirette. Tu hai notato che sicuramente in questi due mesi tutti si sono messi lì a fare dirette streaming su Instagram, su Facebook, ovunque, insomma. Ecco, oggi, insomma, in questa settimana mi sono reso conto che in effetti gli spettatori di queste dirette sono un po' scemati, perché ovviamente si è cominciato ad uscire e le persone sono meno attente a questa forma di apprendimento, anche perché molto spesso erano anche dirette di tipo informativo, e quindi probabilmente si andrà verso una normalizzazione di questo nuovo format video, che comunque rimarrà. Sì, ho cominciato a riavere, non so anche te, i primi inviti per convegni, congressi, tavole rotonde, e ho detto che io non le farò più queste cose. Per il resto della mia vita non andrò più a perdere tempo a parlare di fronte a un tavolo, a dire cose che la maggior parte poi delle persone hanno già su delle slide fatte a casa, quindi mi sembra inutile. Però sai cosa ho notato io? Questo è un appunto mio professionale. In questi due mesi ho messo a punto una nuova maniera di fare il mio lavoro, intervistando persone via Skype. Veniva molto bene, poi chiunque ormai aveva Skype, qualunque ospite a cui potevi fare due domande e scrivere un pezzo, preferivo farlo via Skype, così veniva un video, lo pubblicavano poi sul sito del mio giornale, che è La Stampa. Ha funzionato benissimo, perché tutte le persone che chiamavo avevano Skype, cosa singolare. Sei mesi fa, ma quanta gente aveva Skype a casa, di professori, esperti, medici, epidemiologi? Ma nessuno. Adesso tutti hanno Skype attrezzatissimi, addirittura con le cuffiette, microfoni, con le luci, si organizzavano, aspetti, metto meglio la luce, mettiamo a bajour, insomma, c'era un'attenzione. Ieri per la prima volta una persona che ho chiamato mi ha detto no, preferisco farla scritta, mi faccia le domande e la scriviamo. Perché? Perché ormai è passata l'euforia, è passata l'unica maniera di farsi vedere dentro casa. E un'altra conferenza che ho fatto, la persona mi ha detto no, sai, sono in disordine, preferisco non farla via Skype, facciamola al telefono. Quindi è cambiato qualcosa. E altra cosa, il commercio, l'aspetto, diciamo, economico, si è già si nota un calo dell'attenzione dell'e-commerce. L'italiano ha improvvisamente capito che è molto più semplice comprare le cose via rete. Chi è che ha fatto più affari in questo periodo? Chi ha visto questo momento come il momento della pacchia? Amazon forse, non lo so. Ma guarda, tutti coloro che avevano già un proprio sistema di e-commerce, diciamo, ne hanno in qualche modo beneficiato, mentre gli altri ovviamente si sono trovati in grandissima difficoltà e oggi hanno capito l'importanza di attrezzarsi per il futuro. Però è anche vero che Amazon, eBay e gli altri, che comunque erano già molto pronti, hanno subito dal punto di vista della catena logistica, perché il problema lì sono state più che altro le consegne, quindi la forte domanda che non ha visto una capacità di delivery adeguata. Quindi l'infrastruttura tecnologica dell'e-commerce c'era già, ma il backstage, diciamo così, della consegna delle merci è venuto meno, quindi anche in quel caso i guadagni che si potevano sperare in realtà non ci sono stati, tanto che Amazon ha dovuto togliere dalla disponibilità dello store alcuni oggetti, diciamo, non essenziali, come i cavetti di cui dicevi prima, o le videocamere, che all'improvviso, le webcam, sono diventate introvabili in Italia. Allora, andiamo, se possibile, ad integrare quello che stiamo dicendo con Marco, chiama la provincia di Cuneo. Marco, buongiorno. Buongiorno. Allora, cosa è cambiato per lei in questo periodo? Quali sono stati l'uso che ha scoperto degli strumenti digitali? Allora, la premessa è che io faccio parte di un gruppo, una compagnia teatrale amatoriale che si chiama il Teatro della Rana, che ha sede a Dronero, in provincia di Cuneo, e ci trovavamo tutte le settimane per fare le prove, studiare i nuovi spettacoli, far due chiacchiere, e di punto in bianco, come tutti, non abbiamo potuto fare questa cosa. E allora abbiamo deciso di sfruttare la tecnologia, perché abbiamo un blog che si chiama il Teatro della Rana, appunto, e abbiamo chiesto a tutti i nostri amici e associati di mandarci dei video, massimo di 3 minuti, nella quale ci raccontavano un po' cosa facevano ed eventualmente ci proponessero degli spunti che potevano essere poi utilizzati, finito questo periodo, per mettere su degli altri spettacoli. E questa cosa si sta verificando, c'è la possibilità, ecco, di mettere dei commenti. Però adesso che è finito la voglia anche di giocare delle persone, di questo materiale ne fate qualcosa, vi sarà utile, o ritornate come prima e tutto come prima, esattamente a fare teatro in maniera tradizionale, senza più avere questa sorta di contributo e questo feedback da parte di un vostro possibile pubblico? Diciamo che la sfida è questa, cioè riuscire a sfruttare questo periodo che ci ha costretti a inventarci qualcosa di nuovo per dargli un seguito. Non so se riusciremo a farlo, ma è una sfida che ci sentiamo anche di perché accogliere. Ho già toccato questo tema, prima che riaprano i teatri e la gente possa andare con la stessa affluenza passerà un po' di tempo. Intanto in bocca al lupo. Allora, allarghiamo, visto che il tema del teatro e il tema del commercio messi assieme danno l'idea di quello che in qualche maniera è l'uso della politica, dei social e degli strumenti digitali. Luigi Di Gregorio, buongiorno. Buongiorno a voi. Luigi Gregorio è docente di scienza politica e comunicazione politica presso l'Università della Tuscia di Viterbo. Ha scritto Demopatia, sintomi, diagnosi e terapie del malessere democratico, Rubettino Editore, e aveva anticipato di qualche mese quello che in realtà poi ha cambiato completamente come obiettivo, che era la mutevole e transeunte possibilità che ha la politica di confermarsi in un'immagine stabile. E questo, in questo, diciamo, l'uso estremo dei social da parte della politica ha favorito il meccanismo di continua mutazione. Adesso qual è il punto, Luigi Di Gregorio? Perché a questo punto quello che ci eravamo lasciati dietro le spalle 3 mesi fa, 4 mesi fa è cambiato completamente, è mutato completamente. Quali sono le forze in campo e come è mutato l'uso estremo della politica dei social? Allora, la politica, come tutti i settori della società, ovviamente è stata travolta da questo cigno nero, da questo imprevisto, quindi chiaramente ha dovuto adeguarsi. Quello che è evidente, almeno in questa prima fase, diciamo, più emergenziale, che è appunto legata alla ripartenza, è che questa fase ha molto favorito, diciamo, i governi in carica, ma questo era abbastanza prevedibile, perché quando c'è un nemico alle questo porte… Questo sì, ce l'avevamo detto, certo. Chi ha potere di incidere nella nostra vita, esatto, è quello che ascoltiamo di più in questo momento. Ci stringiamo intorno al decisore, diciamo, al comandante in capo. Però posso dirti una cosa, detto fra noi, l'uso proprio dello strumento digitale che ha fatto anche la politica di governo ha mostrato grosse lacune. Io non ho mai visto una cosa più ridicola e più vergognosa delle conferenze stampa con i giornalisti collegati da casa, di cui non si vedeva una mazza e non si capiva una mazza. Questo o non erano organizzate a Palazzo Chigi per avere un sistema efficiente di gestire la conferenza stampa, o i colleghi ancora non hanno provveduto a avere una rete e un computer decente a casa? Sì, perché quello è stato un imprevisto nell'imprevisto, perché se ci ricordiamo all'inizio la comunicazione era prevalentemente via social, nel senso che il Presidente del Consiglio ci dava appuntamento su Facebook, vi troverete in diretta alle ore X, Sì, cose ridicole. Ti giuro che aspettava mezz'ora con l'inviato in mezzo alla piazza a battere i denti, a raccontare il nulla con la finestrina accesa, aspettare che da Facebook arrivasse il segnale del Presidente del Consiglio, sì. Esatto, e questo ha generato alcune conseguenze, nel senso che alla seconda o alla terza di fila fatta così c'è stata una ribellione di un po' di opinionisti e quindi sono corsi ai ripari con la conferenza stampa in remoto. Però appunto, essendo improvvisata, di fatto non sai per esempio la qualità delle connessioni di chi è collegato con te, e abbiamo visto scene di quel tipo. No, scemi, si sente, non si sente, aspetti che richiamo, gente da universi azzurrini, mondi paralleli, non si capiva niente, con tutte le domande. Cioè è stata una cosa che non ha fatto veramente grande onore all'adeguamento digitale della media dei giornalisti parlamentari italiani, diciamoci veramente, ma nemmeno agli strumenti che poteva avere Palazzo Chigi per creare, non so, potevano fare un super zoom funzionante, fare le prove prima, insomma è stata una cosa abbastanza ridicola, sembrava di essere ancora ai tempi dei vecchi modem. Ci fermiamo ancora un istante, perché adesso mi interessa entrare nel succo, come ci si è mossi nella maniera più forte, bestiale, virulenta dell'uso dei social, che tante soddisfazioni ci ha dato nell'analizzarla soltanto qualche mese fa. Un istante. Melog 800240024. Faccio i necessari e sinceri ringraziamenti alle persone che mi permettono di andare in onda, visto che oggi parliamo di adeguamento digitale. Io trovo che la radio, in particolare Radio 24, ha fatto passi avanti di decenni nella sua capacità di adeguarsi al momento, fornendo comunque ai suoi ascoltatori la possibilità di continuare a avere il rapporto quotidiano e capillare con i propri conduttori, i giornalisti che raccontano ogni giorno le notizie e informano sull'attualità. Sento che è anche migliorato. Io sto giocando con una regia video che non ho mai mi sono potuto sognare. Posso far vedere agli ascoltatori oggetti, pagine, spunti di riflessione, mi vedono a casa mia, non che questo sia uno spettacolo, ma dall'idea comunque del fatto che la vita continua comunque, che non ci arrendiamo alla necessità di segregazione. Quindi oggi con piacere ringrazio da Milano Filippo Aureggi, regia, Giorgio De Luca in assistenza, Sandro Fortunati, che è l'anima della possibilità di poter andare in onda attraverso strumenti sofisticati, e poi da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Stavo parlando con Luigi Di Gregorio, che è docente di scienza politica e comunicazione politica all'Università della Tuscia. Parlavamo della politica adeguata alla necessità del distanziamento sociale. Abbiamo parlato della politica, diciamo, delle posizioni, dell'uso che ne è stato fatto nel fronte della maggioranza di governo, ma vediamo come si è mossa l'opposizione. Allora, noi ci siamo fatti molto interessante osservare quella che è stata la cosiddetta bestia di Salvini, la maniera di cavalcare comunque attraverso strumenti di impatto molto forte e anche efficace il malcontento o le parole forza o le battaglie di pancia. In questo momento però vedo che anche quel tipo di attività è un po' in disuso. Se vedo oggi le opposizioni come si stanno muovendo sui social, stanno ribadendo quelle che sono le fancazzole che ancora girano come evoluzione dei rettiliani o del terrapiattismo. Oggi è le plasmoterapie del popolo, che il popolo ha questa terapia gratuita a buon prezzo, costerebbe pochissimo, ma i poteri forti impediscono che sia diffusa perché ci vogliono controllare, vogliono sfruttarci, via dicendo. Non ti sembra un po' una scelta di retroguardia questa? Parliamo di non entro in merito a valutazioni politiche, proprio osservo lo strumento tecnico. Non si sono inventati niente, prendono il più cialtrone dei leoni da tastiera e fanno loro quello che dice, non si inventano nulla. No, appunto, è sicuramente di retroguardia, ma in qualche modo obbligata, per finché siamo nella fase emergenziale. Nella fase emergenziale prevale la paura, diciamo, sanitaria, e quindi lì le opposizioni, diciamo, hanno poche armi a loro disposizione e quindi si rifugiano in queste armi virali, appunto. Tanto è perché le precedenti paure in questo momento sono disinnestate. Esatto, gli stranieri sono disinnestati. Le persone che ci vengono a casa, bisogna sparargli addosso, sono disinnestate, sono stati tutti a casa, quindi improvvisamente è scemata la necessità di averci il mitragliatore sul comodino. Adesso l'unica cosa è il virus, quindi è nella gestione del virus che bisogna giocare sulle paure, forse. Però non ci illudiamo, nel senso che quando ci sarà la vera fase 2, cioè quando il problema sarà appunto affrontare un PIL che scende di due cifre e l'emergenza diventerà appunto far ripartire il paese, lì riavremo pari pari le stesse logiche di prima. Quindi di fatto lo scettro che al momento è saldamente in mano al governo, lo scettro anche del governo dell'opinione pubblica, passerà di nuovo alle opposizioni, per come la vedo. Quindi la bestia è solo il letargo in questo momento. È solo il letargo. Ritroverà strumenti anche di più facile gestione, perché di fronte alla crisi, alla povertà, è facile dire colpa loro, pigliatevela con loro, e nessuno di noi chiederà meglio che avere un colpevole del fatto che non mette più insieme il pranzo con la cena, ha grosse difficoltà nel proprio esercizio. Sentiamo qualche ascoltatore. Andrea, provincia di Varese. Ciao Gianluca. Ascolto. Ciao, premetto che sul mio computer c'è una piccola statuetta di terracotta di un golem da tanti anni. Guarda, porta una sfiga tremenda, a me mi ha portato una sfiga bestiale, quelle che ti portano dai viaggetti da Praga che vanno a fare gli amici. Sì, lo so, ne avevo io. Due o tre, ne uno alle mie spalle, se riesci a vedere nella telecamera, illuminato da una abat-jour, c'è un gigantesco golem di plastica. Però è un simbolo in cui bisogna stare attenti a maneggiarlo, perché il golem ha questa caratteristica, si rivolta sempre contro il suo creatore e ti fa fare una brutta fine. Con me è stato così almeno. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Allora, io però sono a social, io ho resistito in questa pandemia a non iscrivermi a Facebook e qualsiasi altro social. Ma perché questo neoluddismo così esasperato? Qual era il motivo? Nel senso che sentivo troppe parole, troppa gente che diceva cose, perché li avevo Facebook e Instagram qualche tempo fa, anche un anno fa, però poi era tempo che mi sembrava che sfuggisse e poi ognuno diceva qualcosa, io non capivo, non seguivo, ho cancellato tutto e non mi manca nulla. Ero tentato in questo periodo di iscrivermi, perché essendo a casa dici vabbè, guarda cosa dice questo e quell'altro. Però ho resistito, ho fatto dei puzzle e sono stato molto contento. Quindi diciamo, hai seguito una parabola anche abbastanza comprensibile, ti è venuto un po' il disgusto da iperesposizione ai social e per paradosso hai frequentato meno i social di quanto li frequentavi prima. Me ne rendo conto perché è accaduto un po' anche a me, non trovavo motivi per frequentarli, non c'era più interesse, c'era troppa roba, troppa gente e soprattutto troppo livellamento. Torniamo adesso a Luigi Di Gregorio, continuiamo a parlare della politica. Ecco, quali sono stati gli strumenti? Abbiamo visto in negativo, da una parte una politica di governo che usava i social però in maniera un po' umarellica, la diretta su Facebook, che poi la diretta su Facebook in realtà non era altro lo spunto per essere ripresi dai telegiornali, dalle dirette televisive, perché a poco serviva se non a rimpolpare il profilo Facebook del Premier, tutto sommato. Un galleggiare leggende digitali da parte dell'opposizione senza un bel programma preciso, un'attenzione precisa, un attacco preciso. È possibile capire se la politica ha capito qualcosa dall'uso degli strumenti digitali questi mesi? Te che idea ti sei fatto? O ancora, diciamo, viene considerato una sorta di riflesso o di subordine rispetto a quello che è l'interesse principale, cioè uscire nelle rassegne stampa dei giornali o farsi vedere nei telegiornali? Diciamo, l'auspicio è che ci sia un learning, un apprendimento da questa vicenda. A occhio non mi pare un granché, ma tra l'altro, allargando il campo, prima abbiamo fatto appunto, abbiamo citato il problema, che ne so, della qualità delle connessioni, delle piattaforme utilizzate, eccetera. Ma pensiamo solo che ne so, al sito dell'INPS che va giù per le casse integrazioni, a quanti siti istituzionali non hanno retto a molte meno domande. Questo, e ancora c'è il Red Rationem di Immuni, perché se ne è parlato tanto, esatto, dobbiamo vedere esatto. All'atto pratico che sarà, come funzionerà, che risposta darà nell'immediato. Perché la grande scommessa è questa: il momento fantafighetto del governo sarà quando questa app comincerà a funzionare e dare dei risultati. Come la promuoveranno, come la comunicheranno, come convinceranno le persone a scaricarla. Questo è il vero, secondo me, momento cruciale sarà proprio questo, perché la prima vera grande esposizione digitale. Finora abbiamo chiacchierato, abbiamo fatto piattaforme, convegni, forze di riflessione, ma non c'era mai qualcosa di così fortemente tangenziale rispetto alla vita nostra di tutti i giorni. Non sei d'accordo? Sono d'accordo, e peraltro sta slittando sempre di più il lancio di quest'app. Adesso si parla di fine giugno, per cui un po' per i problemi che sappiamo, diciamo, legati anche ai diritti e alle libertà ovviamente del popolo, e quindi alle cautele da quel punto di vista. Come abbiamo visto, ci sono anche altri problemi più legati proprio alla tecnologia. Ma anche su questo ci sarà una semplificazione, capito? Da una parte i buoni che diranno: per la nostra salute ci salviamo la vita, usiamo Immuni; altri cattivi che mettono i dubbi su Immuni. Anche su questo, chissà perché, la corruzione di trasformare tutto in un argomento di disputa politica impedisce di affrontare razionalmente i problemi, come quello che ho citato prima della plasmoterapia, che è un problema medico, clinico, dovrebbe rimanere nel dibattito delle persone che lo stanno studiando, come questo dell'app, che alla fine dovrebbe rimanere argomento in mano alle persone che studiano anche la sicurezza.